Sezione ventiduesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventiduesimo. Oppresso di stupore, alla mia guida mi volsi, come parvol che ricorre sempre colà dove più si confida. E quella, come madre che soccorre subito al figlio pallido ed anelo, con la sua voce che il suo ben disporre, mi disse: «Non sei tu che tu sei in cielo, e non sei tu che il cielo è tutto santo, e ciò che si fa vien da buon zelo? Come t'avrebbe trasmutato il canto, ed io ridendo, mo pensarlo puoi, poscia che il grido t'ha mosso cotanto? Nel qual, se inteso avessi i preghi suoi, già ti sarebbe nota la vendetta, la qual vedrai innanzi che tu muoi. La spada di quassù non taglia in fretta, né tardo, ma che al parer di colui che desiando o temendo l'aspetta. Ma rivolgiti omai in verso altrui, ch'assai illustri spiriti vedrai, se come io dico l'aspetto ridui». Come a lei piacque gli occhi dirizzai, e vidi cento sperule che insieme più s'abbellivan con mutui rai. Io stava come quei che in sé ripreme la punta del disio, e non s'attenta di dimandar, si del troppo si teme. E la maggiore e la più luculenta di quelle margherite innanzi fessi, per far di sé la mia voglia contenta. Poi dentro a lei udì: «Se tu vedessi, com'io, la carità che tra noi arde, li tuoi concetti sarebbero espressi. Ma perché tu, aspettando non tarde all'alto fine, io ti farò risposta, pria al pensier di che sì ti riguarde. Quel monte, a cui Cassino è nella costa, fu frequentato già in sulla cima dalla gente ingannata e mal disposta. Ed io son quel che su vi portai prima lo nome di colui che in terra addusse la verità che tanto ci sublima, e tanta grazia sovra me rilusse ch'io ritrassi le ville circostanti dall'empio colto che il mondo sedusse. Quest'altri fuochi tutti contemplanti uomini furo, accesi di quel caldo che fa nascere i fiori e i frutti santi. Qui è Maccario, qui è Romualdo, qui sono li frati miei che dentro a chiostri fermar li piedi e tennero il cuor saldo. Ed io a lui: l'affetto che dimostri meco parlando e la buona sembianza ch'io veggio e noto in tutti gli ardor vostri, così m'ha dilatata mia fidanza come il sol fa la rosa quando aperta tanto divien quant'ell'ha di possanza. Però ti prego, e tu, padre, m'accerta, s'io posso prender tanta grazia ch'io ti veggia con immagine scoverta. Ond'egli, frate, il tuo alto disio s'adempirà in sull'ultima spera, ove s'adempion tutti gli altri e il mio. Ivi è perfetta, matura ed intera ciascuna disianza. In quella sola è ogni parte là dove sempre era, perché non è in luogo e non s'impola, e nostra scala infine ad essa varca, onde così dal viso ti s'invola. Infin lassù la vide il patriarca Jacob isporger la superna parte quando gli apparve d'angeli si carca. Ma per salirla mo nessun diparte da terra i piedi, e la regola mia rimase giù per danno delle carte. Le mura, che soleano esser badia, fatte son spelonche, e le cocolle sacca son piene di farina ria. Ma grave usura tanto non si tolle contra il piacer di Dio quanto quel frutto che fa il cuor de monaci si folle, che quantunque la chiesa guarda, tutto detto e della gente che per Dio dimanda, non di parente né d'altro più brutto. La carne dei mortali è tanto blanda che giù non basta buon cominciamento dal nascer della quercia al far la ghianda. Pier cominciò senz'oro e senza argento, e Dio con orazione e con digiuno, e Francesco umilmente il suo convento. E se guardi al principio di ciascuno, possa riguardi là dove è trascorso, tu vederai del bianco fatto bruno. Veramente, Giordan, volto retrorso, più fu il mar fuggir quando Dio volse, mirabile a veder, che qui il soccorso. Così mi disse, e indi si ricolse al suo collegio, e il collegio si strinse. Poi, come turbo in su, tutto s'accolse. La dolce donna dietro a lor mi pinse, con un sol cenno su per quella scala, sì sua virtù la mia natura vinse. Né mai quaggiù, dove si monta e cala, naturalmente fu sì ratto moto che agguagliar si potesse alla mia ala. S'io torni mai, lettore, a quel divoto trionfo per lo quale io piango spesso le mie peccata e il petto mi percuoto, tu non avresti in tanto tratto emesso nel fuoco il dito, in quanto io vidi il segno che segue il Tauro e fui dentro da esso. O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno, con voi nasceva e s'ascondeva vosco, quegli che è padre d'ogni mortal vita, quand'io sentì da prima l'aere tosco. E poi, quando mi fu grazia largita d'entrar nell'alta ruota che vi gira, la vostra region mi fu sortita. A voi divotamente ora sospira l'anima mia per acquistar virtute al passo forte che a sé la tira. Tu sei sì presso all'ultima salute, cominciò Beatrice, che tu dei aver le luci tue chiare ed acute. E però, prima che tu più t'in lei, rimira in Giuso, e vedi quanto mondo sotto li piedi già esserti fei, sì che il tuo cuor, quantunque può giocondo, s'appresenti alla turba trionfante, che lieta vien per questo etera tondo. Col viso ritornai per tutte quante le sette spere, e vidi questo globo tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante, e quel consiglio per migliore approbo che l'ha per meno, e chi ad altro pensa chiamarsi puote veramente probo. Vidi la figlia di Latona incensa, senza quell'ombra, e mi fu cagione perché già la credetti rara e densa. L'aspetto del tuo nato, Iperione, qui vi sostenni, e vidi com si muove circa e vicino a lui Maia e Dione. Quindi m'apparve il temperar di Giove tra il padre e il figlio, e quindi mi fu chiaro il variar che fanno di lor dove. E tutti e sette mi si dimostraro quanto son grandi e quanto son veloci e come sono in distante riparo. L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendomi io con gli eterni gemelli, tutto m'apparve da colli alle foci. Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli. Fine del canto 22.